Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Eccoci qua come ogni domenica, i padri eterni di Radio 24. Ben ritrovati da Federico Taddia e Matteo Bussola. Ciao Matteo, come stai? Fede, guarda, questa settimana è stata una tragedia. Cos'è successo? ma ho la figlia maggiore che ha cominciato ad andare al liceo in città, insomma, mi continua a sbagliare autobus. È una cosa, guarda, torno a casa sempre con un autobus differente. E tu ci caschi ancora? Ci casco, guarda, ma perché lei fischietta e fa la vaga. E devo dire che siccome io alla sua età ero uguale, ero molto distratto, soffro in silenzio e me la tengo anche perché penso, sai, che anche queste cose facciano parte un pochino di quel diritto all'autonomia di cui parliamo spesso, dei figli, no? Cercare di lasciarli liberi anche di, ahimè, compiere i loro sbagli e sbagliare fermata dell'autobus. Perfetto, no, io salto a prendere mio figlio che devo portarlo a scuola l'altra mattina e insomma non apriva nessuno, sono entrato, non c'era nessuno, sono andato in camera e stava dormendo, proprio beato, no? E vabbè, sarebbe la mattina di scuola, l'ho svegliato e lui insomma ovviamente quando viene svegliato a quell'ora ha fatto scusa e poi si è girato dall'altra parte, ho detto ma come? Allora, adolescente, si va a scuola. E quindi, vabbè, sì, è proprio... C'è Alessandro Marco Tulli dall'altra parte, che insomma oggi che anche lui è un super papà. Queste situazioni le conosci bene, vero? Sì, sta con la testa, è proprio rassegnata a queste sveglie. È la quotidianità che ci piace tanto raccontare anche nel nostro programma. Vi ricordo Storie di Padri, ma non solo. Anche oggi tanti ospiti e tanti punti di vista. Oggi è anche una bellissima camminata che abbiamo il piacere di raccontare quasi in diretta perché è appena terminata, e poi le nostre mete domenicali da raggiungere in treno per ripassare, toccare con mano tutto ciò che si è fatto a scuola. I Padri Eterni, state con noi! Matteo, ci siamo trovati a riflettere, no? Sull'essere padre, partendo dalla situazione dove magari è difficile essere padre, ma banalmente anche la distanza, un lavoro che ti fa stare via da casa qualche giorno, qualche settimana, durante la quarantena, no? Quanti papà abbiamo ascoltato che per motivi legati al lockdown erano a distanza dai figli. E la puntata di oggi la andiamo proprio a aprire così, su una riflessione sull'essere padri che è nata all'interno di un carcere, il carcere di Saluzzo, dove 13 padri hanno scritto un libro per bambini intitolato Il Bosco Buonanotte, che è stato un po' il punto finale di un laboratorio di scrittura e di riflessione sulla paternità. Con noi c'è Grazia Isoardi, che è direttrice artistica di Voci Erranti, associazione che ha portato a termine il progetto appunto di Bosco Buonanotte all'interno a Saluzzo, e siamo in provincia di Cuneo. Ciao Grazia, buona domenica. Grazie, buongiorno, buona giornata a tutti. Cosa vuol dire trovarsi davanti a 13 papà, dare loro un foglio in mano, forse una penna, e dire cosa? Come si instaura appunto questa, la vena creativa, anche la capacità, no, di tirar fuori tutto ciò che si ha dentro? Ma prima di tutto non abbiamo dato carta e penna, perché abbiamo giocato, cioè abbiamo chiesto al gruppo di mettersi in gioco e quindi abbiamo fatto dei giochi, degli esercizi che hanno facilitato un po' il clima di confidenza, di fiducia e anche di conoscenza da parte nostra, diciamo operatori, perché comunque partecipava al progetto un'equipe con due psicoterapeute e un antropologo insieme a me e insieme allo scrittore Yos Getaki. E quindi giocando tutto, diciamo, si è reso più facile, più semplice. La prima consegna è stata quella del chiedere loro con degli oggetti presenti nella sala del carcere di creare una situazione, un luogo dove desideravano incontrare i loro figli. Ok. E di lì, diciamo, da queste situazioni poi loro hanno raccontato il perché avevano scelto la copertina per fare un picnic nel prato piuttosto che il cuscino per poter prendere i bambini sulle gambe e farli addormentare e via dicendo. Quindi è stato un percorso sicuramente dove la fantasia, cioè la dimensione dell'immaginazione, era molto presente e ha facilitato molto il nostro incontrarci, perché comunque non è così scontato che delle persone esterne entrano e nel giro di pochi mesi, sei mesi, arrivano a, diciamo, a una profondità che poi porta a un racconto. Grazie, senti, c'è una frase nel libro che mi ha colpito molto, beh, ce ne sono diverse in verità, ma ce n'è una che mi è rimasta particolarmente impressa, no? Quando uno di questi padri dice: se questa fiaba servisse a far capire che non sono solo una persona cattiva. E devo dire, c'è spesso, no, nel nostro paese in particolare, purtroppo, la tendenza a ridurre un essere umano al suo sbaglio, no? A volte quell'unico sbaglio, e la tendenza a considerare un detenuto come una persona quasi priva di diritti, no? Quante volte abbiamo sentito quelle espressioni come marcire in galera, buttare la chiave, eccetera eccetera. Ora, perché invece è importante che questi uomini continuino a sentirsi, anzi a essere padri? Ma intanto, molto banalmente, perché ci conviene a tutti noi che siamo fuori. Perché il detenuto è una persona che chi prima chi dopo uscirà, e quindi fa la differenza come si esce da un carcere. Certo. Un uomo incattivito molto più facilmente ripeterà sbagli e farà danni. Un uomo che ha trovato una sua, diciamo, un suo equilibrio, che ha avuto la possibilità di guardarsi dentro, di rivedere anche che cosa ha portato al reato, cioè qual è stata la sua storia, questa è quello che la Costituzione nostra chiama riabilitazione e reinserimento sociale. Certo, ma grazie, a volte per quella che è la tua esperienza, no? È un paradosso naturalmente, ma questa distanza tra padri e figli, questo anche tipo di coercizione naturalmente, può servire per arrivare a vedere meglio il rapporto che si ha con i propri figli? Personalmente vedo che questa distanza può portare inizialmente a vedere quali valori hanno perso con il loro errore. Con il tempo diventa una sofferenza che non aiuta a maturare, non aiuta da entrambe le parti, perché non aiuta il papà detenuto, in quanto la rabbia aumenta, il senso di frustrazione, di inadeguatezza e di impotenza. Non aiuta i figli, che dall'altra parte vivono questa attesa in modo snervante e faticoso, e che molte volte sfocia poi nell'età dell'adolescenza in rabbia e in rifiuto, sia nei confronti del proprio padre che della società stessa. Certo. E quindi è un perdere una fiducia nei confronti anche di uno Stato, ecco, come cittadini. Certo. Ma quindi ecco che la scrittura, no, la fiaba, come state facendo voi, è uno strumento che può funzionare anche da ponte. Assolutamente. Grazie davvero, scusa il gioco di parole. Ricordiamo Bosco Buonanotte, il prezzo è di 20 euro, si trova sul canale di distribuzione Messaggerie, per chi fosse interessato appunto ad acquistare questo libro. Grazie davvero e complimenti. Grazie a voi e grazie per questo spazio. Grazie mille. Noi ci fermiamo, è il momento dell'informazione per chi sta viaggiando, e poi ancora qua con i Padri Eterni. Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. Vi presenta padri eterni. Se mi scordassi della strada in cui sono nato e del mestiere che mio padre mi ha insegnato, se scordassi che a casa ho una figlia che ancora non sa camminare, se scordassi che a casa una donna da cui tornare, se scordassi che un sogno per cui lottare, se scordassi le botte che ho preso e quelle che ho dovuto dare, se scordassi che ho un buon lavoro e per questo sono fortunato, se scordassi tutte le volte che l'ho dimenticato, e se mi scordassi gli occhi di mia nonna e le parole con cui mi ha cresciuto. Matteo, quante, insomma, quante volte, no, ai nostri figli, alle nostre figlie abbiamo detto: dai, andiamo a trovare i nonni, andiamo a trovare la nonna, andiamo a fare una passeggiatina. Esatto, di solito si va a piedi, in bicicletta, che ha la fortuna di avere i nonni vicino, a volte devi prendere il treno, la macchina, a volte i nonni sono lontani, a volte sono lontanissimi, e succede che magari tu la tua nonna la vuoi proprio andare a trovare perché da un sacco di tempo che non la vedi, ma succede l'imprevisto. Non si può. L'imprevisto ha un nome, che è pandemia, quindi è un imprevisto serio, e quindi la nonna che vive a Londra, tu invece che vivi in Sicilia, non puoi andarla a trovare. A meno che, Romeo, a meno che, cioè, come hai fatto ad andare a trovare tua nonna a Londra? Allora, io è da quasi 2 anni che non avevo visto mia nonna, okay. Che non vedo mia nonna, e quindi diciamo ho pianificato in segreto durante la quarantena di andare a vedere mia nonna, ma diciamo non usare macchina o aereo, okay. O barca o motorino, ma anche un'esperienza molto diversa, ma camminare, come camminare o qualcosa senza usare petrolio, senza usare carbonio. Per quindi insomma ti sei fatto una passeggiatina dalla Sicilia a Londra, sono circa 2800 chilometri insieme a tuo padre, vero? Avete fatto questa lunghissima, esatto, avventura, siete partiti il 18 giugno e siete arrivati il 20 settembre, quindi un paio di mesi, tre mesi di cammino. Ma sei stato tu a convincere tuo padre o è stato tuo padre a convincere te? No, sono stato io a convincere tutti e due i miei genitori per farmi andare insieme a qualcuno, perché certamente lo non posso fare da solo. Quindi io ho aspettato da tutta la quarantena e alla fine ho chiesto una sera così, mangiando cena, ho chiesto: papà, mamma, ma possiamo fare questo viaggio? E loro dicono no, per quasi, non lo so, 50 volte o anche di più. E allora dovevo fare tutti i modi per convincerli e alla fine, diciamo, hanno detto sì. Quindi io e mio padre, che mi accompagnava, abbiamo cominciato a fare questo viaggio insieme a dovevamo essere sicuri con il Covid e tutto. Romeo, quindi, guarda, Io sono oltre l'ammirazione, cioè io ho sentito la fatica ai piedi solo a leggere la storia, non ti dico altro. Sì, ecco, considera che le mie figlie, se le invito a scendere a piedi in paese per fare la spesa, già si lamentano. Tu hai fatto 2800 chilometri a piedi, cioè, come si fa? Ma e soprattutto, di cosa avete parlato con il tuo papà durante tutto questo viaggio? Allora, diciamo, abbiamo parlato, non so, scherzavamo all'inizio, chiacchieravamo, parlavamo, e poi alla fine dicevamo che ero stressato perché c'era mio padre con me e diciamo che mi faceva fare delle cose che non volevo fare, io volevo solo camminare, e lui diceva: ok, basta, non mi sento bene, aspetta, riposati. e lui ha solo 46 anni, guarda, solo. E lui è giovane, ma si sente vecchio, è impossibile. Succede a noi padri, a volte siamo giovani e ci sentiamo vecchi, a volte siamo vecchi e ci sentiamo giovani, non siamo mai d'accordo con noi stessi, è questo il problema. No. Okay. Ma il problema è che quando ho finito il viaggio, ora mi sento di 100 anni. i miei piedi. Ci credo. Beh, Romeo, però... c'è qualcosa di tuo padre che ti ha particolarmente divertito, ti ha particolarmente stupito in questi mesi, sì, che avete camminato insieme? Sì, allora, diciamo che ero molto felice e poi emozionato che mi hanno fatto fare questo viaggio, perché di solito loro dicono no a tutto quello, e quindi ero felice che mi hanno fatto avere, diciamo, cioè, questa non era un'idea mia, ma anche la mia immaginazione, e non pensavo che dicevano di sì, quindi ero molto felice, e anche a mia madre che aveva detto di sì, perché lei è molto, diciamo, lei è molto stressata con il lavoro e tutto, quindi hanno detto sì, e quello mi è stupito di più. Romeo, senti, ti senti più vicino a tuo padre dopo questa esperienza? Cioè, nel senso, sì, è un'esperienza che consiglieresti anche ad altri bambini con i loro padri, senza, sì, fare 2800 chilometri magari, va bene, sì, bene anche una decina, per come la consiglieresti? Sì, sì, certo, cioè, anche non devono fare un'avventura così lunga, ma anche una passeggiata insieme, tipo in un paesaggio bellissimo, parcheggi nel mezzo del nulla e cammini, non so, 2 chilometri, è veramente bello. E visto che mio padre è giornalista e viaggia da tutto il mondo, abbiamo veramente avuto un'esperienza di più insieme, di più tempo. Che bello, bellissimo. La nonna tutto bene? Sarà stata felicissima, immagino. Sì, quando l'abbiamo chiamata era molto esaltata, era felice, e ha detto che ci prepara una torta enorme di cioccolato. Certo, grande, sì, perché adesso c'è la quarantena. Il problema è che già ci siamo ingrassiti di non so di quanto, perché tutte le posti dove siamo restati, le persone dicevano: ah, ma dovete mangiare la carne, i vegetali, guarda, ti do 5 pasta. Quindi ci ingrassavamo di più di quanto abbiamo iniziato il viaggio. Fantastico, beh, dai, c'è giusto posto per una torta al cioccolato. Sì. Grazie Romeo, sei simpaticissimo, complimenti davvero per questa avventura e per come l'avete, certo, fatta, anche per la nonna, per il taglio ecologico anche, sì, no, del non voler usare il carbone, insomma, e anche come la racconti. Ciao Romeo, buona giornata. Ciao. Grazie. Ciao Romeo. Insomma, una bellissima camminata, però è stato proprio bello quello che ha detto Romeo, Matteo, no? Fate anche delle passeggiate corte, no? Bastano pochi chilometri per stare insieme, per cambiare, per scoprire qualcosa. E proprio in questi giorni ho trovato un'altra camminata padre e figlio, una camminata anche qui di qualche giorno, però sono quelle grandi avventure che però di fatto sono piccole imprese che veramente tutti possono provare a realizzare. Sì, ci vuole un minimo di coraggio, ma quel coraggio del buttarsi. Ma poi sono quelle avventure che da grandi i nostri, sì, figli ricorderanno, quel tempo lì passato insieme, no? A fare una cosa insieme all'aria aperta, sono queste le esperienze che ti ricordi di più. E ci sono quelle frasi che probabilmente danno senso, no, a tutto quello, tipo il paradiso deve essere così, ed è quello che ha detto Martina a suo papà Adriano quando ha scoperto il Monviso dopo una camminata di 4 giorni. Diamo il benvenuto ad Adriano Vietri, che è qua con noi. Ciao Adriano. Buongiorno. Ciao. Ciao Adriano. Allora, avete percorso il Re di Pietra, un tour di 4 giorni, sono circa 40 chilometri nel parco del Monviso, appunto tu e Martina che ha 7 anni, insomma un tour di 4 giorni in montagna non sono pochi per una bambina così piccola. Com'è nata l'idea? Ma l'idea è nata leggendo la guida di Tony Farina, Grandi Scoperte a Piccoli Passi, una domenica in lockdown, ho messo giù questo progetto seguendo passo passo questa guida con qualche variante. Diciamo che le prime 2 tappe ho sfruttato i rifugi Quintino Sella e Vallanta, e la terza tappa siamo stati in tenda in Francia. Ma senti Adriano, come se l'è cavata Martina? Nel senso che spesso crediamo che i figli, no, quando li portiamo a camminare magari siano lamentosi. Io prima scherzavo dicendo che le mie figlie si lamentano perfino se le porto a fare la spesa a piedi, no? Ma in realtà quelle poche volte che sono andato a camminare in montagna con loro, o le volte assai più frequenti in cui sono andate con i nonni, devo dire che sono sempre rimasto sorpreso della loro resistenza, della loro capacità di stupirsi di tutto. Tua figlia come si è comportata? Ma si è comportata bene, diciamo che Martina è molto allenata perché spesso andiamo a camminare in montagna, facciamo anche vie semi-alpinistiche e quindi c'è già un approccio con la montagna molto positivo. E sa che dopo la fatica c'è sempre un bel panorama o qualcosa di bello da vedere. Ed era molto, molto motivata, il parco è bellissimo, la montagna Montiso è molto bella, scambetti, nuote, laghetti, fiumi, insomma. Sì, quello aiuta, diciamo, il panorama aiuta, esatto. Sì. E invece al di là di quello, lo chiediamo al padre, no? Il rapporto tra di voi è cambiato, è scattato qualcosa in questi 4 giorni? Sì, devo dire di sì, è scattato qualcosa. Martina, dopo il primo, anche il secondo giorno, si è confidata con me, mi ha dato alcune sue preoccupazioni, mi ha confidato delle piccolezze che forse avrebbe fatto solo con la mamma, ecco. Mm-hmm. E questo è stato molto bello. Ma ci sono... E poi quella frase del paradiso è stata il coronamento di tutto. Stavo pensando che, Matteo, no, prima parlavamo del coraggio, che non c'è solo il coraggio del mettersi uno zaino in spalle e andare, c'è anche il coraggio di prendersi un tempo per stare da soli con i propri figli. È un tempo che spaventa molto. È vero, sì, si ha paura anche dei silenzi, si ha paura dei vuoti, quindi anche con un mettersi in gioco appunto al di là della ferrata, al di là della camminata. Certo, ma senti Adriano, no, mi chiedevo, ci sono stati momenti particolarmente difficili, o meglio, guarda, te la giro così, raccontaci da padre... Con 2 immagini, se riesci, il momento per te più difficile e quello più bello. Ma i momenti difficili ci sono stati, soprattutto la seconda tappa, che è quella più lunga per un adulto da 6 ore. Noi ce ne abbiamo messi di più, anche perché siamo stati sotto un temporale pazzesco per più di 3 ore. Ci siamo rifugiati in una stalla, fortunatamente gli animali erano fuori, poi ci siamo un po'... Diciamo che l'ho coccolata un pochino, gli ho messo i cerotti alle fiacche dei piedini. Insomma, quello è stato un po' un momento critico, però Martina l'ha sempre comunque vissuto in modo positivo, ecco. Si è sempre fidata di me. Certo. Gli ho detto, vedrà che andrà tutto bene. Poi ogni tanto l'ho presa anche in spalla per brevi tratti, perché comunque il mio zaino... pesava circa 20 kg, lei ne pesa 20 col suo zainetto pure, però era un modo anche per fargli vedere, per fargli sentire la mia vicinanza, io ci sono, non ti preoccupare, e niente, questo è stato un momento un po' critico. Mm-hmm. Il momento più bello, sono tanti i momenti più belli. Certo, no, poi, credo, insomma, c'hai già detto appunto che le cartoline che ti porti a casa da questa esperienza sono veramente innumerevoli. Ciao Adriano, grazie, salutaci Martina e complimenti per questa bella impresa, grazie, padre e figlio. Ciao, ciao, ciao. Ciao Adriano, ciao. Noi ci fermiamo nel momento del meteo, la pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Speciale. Questa sera tutti a casa, c'è il telegiornale. E tra un boccone e l'altro un servizio dal Giappone. E quando sei alla frutta la città è distrutta. Il telegiornale che ti fa imparare. Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i Padri Eterni, con questo Il Telegiornale che il nostro Danilo Di Trani ha dato a estrapolare dalla discografia di Antonello Venditti. È una di quelle canzoni che ogni tanto diciamo, neanche Venditti insomma si ricordava di averla cantata. Devo dire che di Danilo mi colpisce sempre questa cultura musicale del tutto trasversale anche rispetto alla sua generazione. Assolutamente, però insomma voleva fare un omaggio al nostro prossimo ospite, quindi è andato appunto a pescare una citazione. È un'amica dei Padri Eterni, insomma, oltre ad essere una bravissima giornalista, è stata volto del TG1 per tanti anni, ma qualche anno fa, nel 2017, ha pubblicato un libro molto puntuale sulla parità di genere, sulla questione femminile, intitolato Orgoglio e pregiudizi, per chiare lettere. E insomma adesso c'è forse la seconda faccia, no, di quella medaglia, perché la questione di genere è appunto già anche l'altro lato, che è quello maschile. Ed ecco un libro appena uscito, sempre per Chiari Lettere, intitolato Uomini, è ora di giocare senza falli. Diamo il benvenuto a Tiziana Ferrario. Ciao Tiziana. Ciao, eccomi, buona domenica e grazie dell'omaggio, dell'introduzione. Hai sentito. Intanto subito Tiziana, questo titolo era per mettere in difficoltà noi maschietti, noi conduttori anche, no? Volevi metterci alla prova. Ma perché difficoltà? ho usato un linguaggio calcistico che è quello tipico degli uomini. L'unico che in tanti forse riconoscono o comprendono, certo. Quello che volevi dire. Allora, ovviamente il nostro è un programma di padri che parla ai padri e insomma diciamolo, abbiamo avuto anche la fortuna di poter chiacchierare con te, no? Ci hai anche intervistati come... Certo, siete i miei due uomini nuovi, siete alcuni dei miei uomini nuovi. O comunque portatori appunto di tante voci di uomini nuovi che intervistiamo nel nostro programma. Come mai, Tiziana, hai scelto di mettere gli uomini al centro e poi ti chiederemo che padre hai trovato raccontando appunto questi uomini? Intanto mi è sembrato necessario incominciare anche a indagare un po' sull'universo maschile, perché mi sembra un mondo in cambiamento, in evoluzione, gli uomini non sono tutti uguali e quindi ho pensato che fosse giunto il momento anche di farli parlare e ho raccontato gli uomini vecchi, che io chiamo maschilisti, e però ho voluto anche buttare un occhio su quelli che a mio parere non sono maschilisti o stanno comunque girando le spalle a quel modello maschilista. L'ho fatto con l'idea di dare un contributo, di gettare un sasso nello stagno per vedere se altri uomini hanno voglia di parlare, di uscire allo scoperto, perché parlando e chiacchierando e confrontandosi si può provare anche a fare un cammino insieme. Certo. Perché si è parlato tanto di donne, no, in questi anni. Certo. E dei diritti delle donne. Io stessa, appunto, come avete ricordato, ci ho scritto anche un libro. Però gli uomini sono rimasti molto silenziosi su questi temi e invece non devono essere silenziosi, perché la parità riguarda anche loro e riguarda delle opportunità che si aprono anche per loro. Non è togliere terreno, no, agli uomini, certo. Ma è uscire da delle gabbie dove hanno imprigionato per tanto tempo le donne, ma anche gli uomini. Tiziana, senti, ma entrando nel vivo, no, che cosa ti sembra di avere compreso da questa tua ricognizione nel maschile, o meglio mi verrebbe da dire nel maschile maschilista, no? Cioè questi uomini nuovi di cui parlavi, questi nuovi padri a cui anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di dar voce, si fanno sentire, o questo brodo culturale in cui siamo immersi è ancora talmente presente da sommergere il resto? Insomma, la foresta che cresce ce la fa a far più rumore dell'albero che cade? Allora, senti, io ho dovuto fare un bel po' di fatica per cercarli questi uomini nuovi. All'estero per me sarebbe stato più facile, ma l'Italia è un paese patriarcale con delle regole culturali molto chiare, molto nette, molto radicate. Quindi io però intravedo nelle giovani generazioni un cambiamento, voi lo raccontate sempre nella vostra trasmissione, e quindi c'è anche la voglia di iniziare da parte dei ragazzi, dei giovani, di iniziare a fare anche delle cose che una volta erano di esclusiva competenza femminile, per esempio viversi la paternità in modo più profondo, cosa che in un uomo che oggi ha 70 anni insomma non è così scontata, quindi c'è anche un voler non rimanere ingabbiati in certi privilegi, che poi privilegi si scopre non sono, e quindi c'è sicuramente una differenza generazionale tra, certo, chi, e nel libro per esempio Vecchioni, Roberto Vecchioni, che io ci ho fatto una chiacchierata, lui lo racconta molto bene, cioè lui ha 77 anni e racconta di essere nato con un sacco di privilegi e da solo mai avrebbe rinunciato a quei privilegi, però ha avuto accanto una donna che gli ha fatto capire che non doveva crescere facendo differenze, non doveva crescere i figli facendo differenze tra i maschi e le femmine, che comunque doveva imparare a essere consapevole di che cos'è la parità. E quindi lui ti dice: io sono un uomo in cammino, non sarò mai un femminista, ma sono un femminofilo. Certo. No? E quindi insomma ci sono uomini che comunque hanno messo in discussione tutta una serie di privilegi che gli erano stati dati, e sono contenti di averlo fatto, cioè non è che vivono con sofferenza questo, certo. Anzi, Matteo, quando abbiamo fatto la nostra chiacchierata, tu mi raccontavi anche però che le donne ti guardavano strano quando ti vedevano arrivare da solo a seguire le tue figlie alla piscina, ed era come se tu entrassi nel loro spogliatoio, no? Quindi le donne difendevano quello spazio. Ma sai, Tiziana, guarda, anticipo, data questa tua provocazione, la domanda che ti volevo fare, no? Secondo te, ribaltando, diciamo così, no, la medaglia, esistono anche delle donne o delle mamme che sono magari involontariamente maschiliste, cioè che hanno talmente introiettato questo humus culturale da essere a loro volta, no, da guardare la vita con questi occhiali? Ma certo, perché questo modello patriarcale è una grande fregatura per tutti, e quindi io sono convinta che anche le donne dovrebbero comunque cedere pezzi di quelle che loro pensano siano le loro competenze familiari, perché solo così guadagnano più spazio, più tempo per se stesse da dedicare poi a quello che vogliono. Però Matteo mi ha fatto molto riflettere, no? Quando mi ha detto questa sua esperienza di papà a tempo pieno, come veniva vissuta dalle donne che lo chiamavano mammo, e lui dice: ma io non sono un mammo, io voglio essere un papà, certo. E perché devo diventare un mammo solo perché voglio fare il papà? Certo. Ci ho molto riflettuto su questa cosa che tu mi hai detto, e che però è un messaggio fortissimo. No, come per esempio un altro degli intervistati, Lorenzo Gasperini, che mi ha raccontato quando lui faceva l'università e voleva occuparsi di studi di genere, perché voleva specializzarsi in quello, cosa che all'estero è pieno di uomini che si occupano di questioni di genere. E io ho intervistato nel libro anche un grande come Kimmel, che è un grande sociologo americano, che lo ha fatto, ha scritto grandi libri sulle questioni di genere, e gli rispondevano: ma questa è una cosa da donne. Okay. E quindi faceva fatica a seguire gli studi che lui voleva, perché non veniva ritenuta una facoltà per uomini. Certo, insomma, sono tanti gli esempi, insomma, su cui ci fa riflettere Tiziana Ferrario nel suo libro, ricordiamo, Uomini, è ora di giocare senza falli, che tra l'altro è un grande specchio, quindi vi consigliamo veramente, in quanto padre, in quanto uomini, di leggerlo anche per riscoprirvi, per chiederci, no, anche in che posizione stiamo, perché magari soprattutto quando vi credete uomini o padri particolarmente illuminati, potreste trovare delle sorprese. Esatto, i cosiddetti falli, come appunto li chiama Tiziana, sono gli errori o le trappole, come spesso noi andiamo a definirle. Grazie davvero, Tiziana, complimenti per questo libro, grazie anche per averci coinvolte, insomma, e speriamo veramente che i nuovi padri possano farsi sentire. Ciao e buona domenica. Ciao, buona domenica. Noi ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Puoi tenere la velocità che vuoi, puoi fermarti quando vuoi, è pura libertà. E poi, mentre pedali, hai la possibilità di ritrovare la tua creatività. Mezzo silenzioso, pacifico. Secondo me la bici sarà quello che forse un giorno ci salverà. Si sente l'aria addosso, sembra un po' di volare. Libertà, benessere, ma anche viaggio, divertimento, mobilità, tecnologia, impresa, sono tante le storie che ci racconta la bici, e noi le ascoltiamo insieme su Radio 24. Sono Alessandra Schepisi, vi aspetto all'interno di Passione Domenica con A Ruota Libera, ogni domenica alle 16. Padri Eterni, ripasso in Italia. Siamo puntuali come un treno, come appunto succede ogni domenica con il nostro spazio Padri e Treni, Padri Eterni, appunto, che vi porta in viaggio per ripassare l'Italia, o meglio vi indichiamo tante mete, tutte raggiungibili in treno per delle gite, delle escursioni, delle visite anche in giornata, dove ragazze e ragazzi, i nostri figli possono ripassare, toccare con mano cose che hanno studiato a scuola. Quindi, ok, prima magari le hanno viste durante una lezione, le hanno sfogliate sui libri, e oggi invece in treno vi diamo appunto le dritte per queste cose poterle veramente respirare anima e corpo. Dove andiamo oggi? Oggi la prima fermata è a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, per vedere il parco dinosauri in carne ed ossa. Protagonisti indiscussi, naturalmente, sono i dinosauri, gli altri animali preistorici. Troverete 30 modelli, tutti ricostruiti a grandezza reale, alcuni dei quali di dimensioni gigantesche, che ci raccontano la storia e l'evoluzione della vita sulla terraferma. La seconda fermata invece è a Omegna, che è in provincia del Verbano Cusio Ossola in Piemonte, per visitare il parco della fantasia, che è interamente dedicato allo scrittore più letto nelle scuole, uno dei più amati in Italia. Tra l'altro proprio quest'anno ricorre il centenario, l'immenso Gianni Rodari. Terza fermata a Tarquinia, in provincia di Viterbo, per immergersi nella cultura etrusca con la visita ad un bellissimo museo e alla suggestiva necropoli. Un vero viaggio nella storia. Adesso invece il treno lo prendiamo noi e scendiamo a Cosenza per andare a visitare il MIAI, che è il Museo Interattivo di Archeologia Informatica, quindi un bel viaggio nella storia dei calcolatori. E questo viaggio lo facciamo con Emiliano Russo, che è appunto il direttore del MIAI. Ciao Emiliano, buona domenica e benvenuto ai Padri e Treni. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e buona domenica. Allora Emiliano, cosa si può apprendere visitando il vostro museo? Di cosa si tratta? Allora, il nostro museo è un museo di informatica, appunto, quindi sono conservati ed esposti dei computer storici, dei sistemi storici che risalgono agli anni 60, agli anni 70, agli anni 80, quindi al nostro passato, al passato di questa nuova era digitale. Oggi ci troviamo nel 2020, che è l'anno 2020 dopo la nascita di Cristo, e ci troviamo anche in un certo istante dell'era dei computer. I computer hanno iniziato a contare il tempo all'istante zero del 1 gennaio del 1970, e quindi in qualche modo questo determina anche la nascita di una nuova era, come c'è stata l'era cristiana, l'era dell'informatica. Ed effettivamente oggi questo è lo strumento, il computer, questo strumento è probabilmente lo strumento più importante nella vita di tutti i giorni delle persone su questo pianeta, e per cui secondo noi esplorare il passato di questa tecnologia ci aiuta anche a capire il passato nostro, della nostra storia recente. Ma infatti Emiliano, guarda, io quando ho letto il programma di questo museo, insomma, mi sono emozionato, perché io vengo naturalmente, come tutti quelli della mia generazione, dal Commodore VIC-20. Pensavo, può essere davvero utile mostrare ai nostri figli, no, che oggi sono abituati alla tecnologia touch, per esempio, a fare tutto con un tocco in un secondo, che una volta, appunto, per allegare un file a una mail ci volevano 6 ore, o mostrar loro un modem 56K, insomma, cioè hanno modo di provarli anche questi vecchi computer, questa vecchia tecnologia, sono funzionanti? Sì, noi restauriamo questi oggetti proprio perché è il vederli in funzione che racconta la loro storia, non sono dei puri oggetti estetici come può essere una statua. E quindi è importante secondo me restaurarli. Sì, vengono molti anche ragazzi, scolaresche in particolare, e devo dire che la cosa funziona molto bene. E una cosa che ci ha meravigliato è scoprire, da un paio d'anni abbiamo anche attivato una collaborazione con un'associazione che lavora con i bambini, che prima non sconsigliavamo la visita a un bambino di 5-6 anni, e con nostro piacere abbiamo scoperto che invece è adatto anche a loro, specie se accompagnati dai genitori, e quindi si crea anche un piccolo scambio generazionale. Vero. In cui i papà, le mamme fanno vedere il Pong, no? questo è il videogioco con cui giocavano mamma e papà, questo è il computer che usavamo, e così via. Per le scolaresche, per gli studenti universitari è anche molto interessante, perché sono materie che si studiano. Certo, cioè è un po' studiano il coding a scuola e lì paradossalmente, no? Forse su un vecchio computer riesci anche a capire meglio che cos'è un algoritmo, quali erano appunto i linguaggi macchina primitivi, no? Che erano forse meno intuitivi, ma più ti fanno capire proprio il concetto di programmazione. Certo, perché sei costretto a interagire con la macchina a un livello più basso, esatto. Si dice nel linguaggio tecnico, e quindi a capirne di più gli internals, il funzionamento. E qualche padre si perde appunto a giocare, magari c'è qualche videogioco anche attivo sui computer? Sì, abbiamo un sacco di videogiochi, immagino. Console storiche, Zanussi Pingotronic, probabilmente è il videogame più vecchio che abbiamo, che risale al 1975, con ogni probabilità è la prima console giochi prodotta in Italia, un clone del Pong di Atari che è del 1972. Quindi sì, c'è tutta la timeline delle console giochi, da appunto il Pong, che è la prima console domestica, fino alle prime PlayStation, e poi insomma a una ventina di anni fa ci fermiamo, perché poi diventa una cosa contemporanea. Certo, sto pensando, il Tetris c'è? Sì, abbiamo ricostruito la versione originale russa del Tetris. Il Tetris ha una storia particolare, è un gioco che è stato sviluppato da un ricercatore di un'università di Mosca o di un centro di ricerche di Mosca, e così per diletto, per giocarci con i propri colleghi, e quindi funzionava su un sistema dell'Unione Sovietica, dell'ex Unione Sovietica, l'elettronica qualcosa, non ricordo il modello esatto, che è un clone di un sistema occidentale che noi abbiamo, per cui siamo stati in grado di prendere il codice originale, l'eseguibile originale del Tetris, ed eseguirlo su un sistema occidentale, purtroppo non abbiamo l'elettronica, sul sistema occidentale di cui l'elettronica era il clone, per cui è esattamente identico, perché i russi avevano clonato oltre alla macchina anche il sistema operativo. Perché vuoi mettere il piacere di arrivare davanti a un Tetris e poter dire a tuo figlio: figlio, sì, io sì, che ti dico, non passare il pomeriggio, tutto il pomeriggio al computer, alla console. Ecco, io i miei pomeriggi li passavo davanti a lui, in modo proprio per fare una pace generazionale più che un ponte generazionale. Sì, e poi è ingegnoso il Tetris originale, perché non funziona in grafica, funziona su una console a caratteri, e le animazioni, i blocchi sono disegnati con delle parentesi quadre. Okay. ma è archeologia industriale. Io che per lanciare una stampa andavo a fare la spesa, ti ricordi? No, poi insomma è proprio un po' raccontare ai nostri figli anche la nostra infanzia, la nostra infanzia loro, no? Raccontare loro come eravamo quando avevamo la loro età. Questo museo, oltre a darti la possibilità di ripassare, capire, apprendere un sacco di cose, è proprio anche un viaggio nel tempo. Grazie davvero ad Emiliano Russo, ricordiamo il Museo Interattivo di Archeologia Informatica di Cosenza, cosenzacultura.it, il sito per tutte le informazioni, una meta ovviamente raggiungibile in treno. Ciao Emiliano, grazie, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica a tutti. È il momento dei saluti, un grazie ad Alessandro Marcottulli, oggi in assistenza, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica, Danilo Di Trani che con noi ha scritto la puntata, ma il grazie più grande come sempre va a voi per essere stati in nostra compagnia. Radio24.it il sito, da lì potrete scaricare il podcast. padreeterni@radio24.it invece se volete contattarci. Ciao Matteo, buona settimana. Ciao Fede, buona settimana anche a te. L'appuntamento come sempre a domenica prossima alle 11. Ciao! Ciao! Mm-hmm.